Euroreportage. Un record che non vorremmo. La pianura padana, la più inquinata d'Europa. Di Anna Migliorati. L'aria ossigena ai polmoni, non la devi mai inquinare. Si potrebbe dire che lo sanno ormai anche i bambini. CO2, azoto, polveri sottili. L'aria che respiriamo non è delle più salutarie. Per chi vive in quella conca naturale d'Europa, che è la pianura padana, prendere una boccata d'aria non è proprio un bel modo di dire. Ma siccome una passeggiata non ce la vogliamo negare, proviamo a capire. L'Italia, pecora nera d'Europa per la qualità dell'aria, rischia l'ennesima multa di Bruxelles, ma ancor più rischiano i nostri polmoni. Sotto accusa le regioni del nord, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna. E allora blocchi di auto, strette, spesso solo sulla carta, ai riscaldamenti, mascherine, polemiche. Eppure quest'anno una novità dovrebbe esserci, visto che le quattro regioni hanno firmato un patto, un accordo quantomeno per darsi regole comuni sulla base di un semaforo dello smog, un verde, un giallo, un rosso per i nostri polmoni. L'avvio, diciamolo, non è stato dei migliori tra lite e decisioni in ordine sparso, con Torino nel ruolo di ultima della classe per i dati, ma la più decisa a combattere le PM10. E il Ministero dell'Ambiente a ricordare a tutti che i patti però sono patti. Servirà solo politica? La prima risposta ce la dà il presidente dell'ARPA Lombardia, l'agenzia deputata a monitorare l'aria, Bruno Simini. Che non è che ognuno si produce il suo piccolo fumino e poi se lo legge e quindi fa i conti con quello che produce. Certo, è importante perché l'accordo ha incardinato e incorniciato una matrice all'interno della quale si può lavorare tutti insieme per arrivare a un risultato, per poter dire a tutti i cittadini quando scattano i provvedimenti. Sono dopo 4 giorni di superamenti delle soglie i provvedimenti di primo livello e dopo 10 giorni di superamenti delle soglie provvedimenti un po' più restrittivi. Per farci capire, diciamo, questo per attaccare il traffico e il riscaldamento, tutte le emissioni che non sono particolarmente viziose nelle nostre regioni rispetto ad altri paesi. Ricordiamo che anche le emissioni pro capite non sono peggiori di quelli di Spagna, di Germania e persino di Francia. Il non si disperdono. È che tutto quello che emettiamo ci resta addosso. È come se vivessimo in una stanza dove ci dormiamo la notte, ma la mattina non possiamo cambiare l'aria perché non ci sono le finestre. Mettiamo un dato sul tavolo. Certamente l'aria con cui abbiamo a che fare oggi e con cui facciamo i conti è un'aria malsana. 10 anni fa, se oggi noi abbiamo 2 mesi all'anno di superamenti, lo dico in mesi così anche chi ci ascolta riesce a farsi un'idea molto semplice, solo 10 anni fa parlavamo di 6 mesi su 12, quindi siamo ancora insoddisfatti dei tanti superamenti, ma siamo su una strada tendenziale di provvedimenti strutturali che fanno sì che ogni anno la situazione migliori. Naturalmente sono tantissimi i fattori che convergono in termini percentuali, qualcuno varrà anche dei decimali, perché quando ci sono dei provvedimenti restrittivi di un centro storico, facciamo un esempio, è chiaro che il dato letto sull'intera pianura padana è risibile, ma questo non significa che se ne possa fare a meno, perché tutto concorre a un risultato. Anche chi non può proprio fare a meno del motore e dell'acceleratore deve sapere che a parità di veicolo la guida sportiva emette il 50% in più di una guida dolce. Sarà sempre meno il problema di quello che esce dal tubo di scappamento, perché un Euro 6 oggi diciamo sputa poco, schifezza dal tubo di scappamento, ma per esempio ci sono i freni e gli pneumatici. E non crediate, i dati lo confermano, anche frenare fa male all'aria. Cosa c'è nella nebbia in Val Padana? Ci sono cose che a dirle non ci credi. Auto sotto accusa, ma i colpevoli dell'aria inquinata, se così vogliamo definirli, sono anche altri. Le emissioni di ossido di zolfo, ad esempio, sono dovute soprattutto alle industrie, ma l'ammoniaca, che pure incide parecchio, arriva da agricoltura e allevamento. E poi non ci sono solo le polveri sottili PM10, ma quelle ancora più sottili, le PM2.5, che entrano nei nostri polmoni. Su questo il duello si gioca tra traffico e riscaldamento. Chi lo vince, ahimè? Marco Chiesa, professore al Politecnico di Milano dell'Energy Strategy Group, ha provato a giocare questa partita. La partita è abbastanza alla pari, diciamo, l'opinione pubblica porta a dire che le auto sono sicuramente i maggiori responsabili, questo è vero. Tuttavia, un terzo delle emissioni di PM10, quindi di particolato, di polveri sottili, è ascrivibile a quelli che sono gli impianti termici. Quindi, anche ammesso che facciamo i blocchi delle auto, resta tutto il resto. Esattamente, soprattutto con livelli di concentrazione differenti, perché è sì vero che la base annuale presenta questi valori, ma è anche da dire che ovviamente il traffico auto è spalmato, è distribuito sull'intero anno, diciamo, gli impatti dovuti ai sistemi di riscaldamento sono concentrati in alcuni giorni dell'anno, in alcuni mesi, anzi viene da dire in alcune ore della giornata. C'è un'altra causa non così sotto accusa sul banco dell'opinione pubblica, le stufe. Determinano degli impatti davvero, davvero rilevanti. Abbiamo analizzato una città del centro, che era Perugia. Circa il 27% del numero totale di impianti sono alimentati a legna, quasi il 98% delle emissioni di PM10, PM2.5. Oggi la quota più o meno di immatricolazioni di auto elettriche in Italia è attorno allo 0,12, siamo a livelli bassissimi. Se esatto. Pensiamo alla Germania 0,73, 1,46 la Francia, lontanissima da noi la Norvegia col 28,76. Le stime sono però che si vada sempre di più verso queste tecnologie, così come il riscaldamento green. L'aria inquinata è un problema che risolveremo con la tecnologia? Le tecnologie oggi sono sempre più mature, sempre più disponibili. Mi viene da dire non solo, crediamo che sia una battaglia dura, ma si può indubbiamente vincere. E allora ben venga la tecnologia, ma anche i comportamenti. Guardando i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente è difficile crederlo, visto che il dato è desolante. La pianura padana è la zona più inquinata d'Europa. Enrico Brivio è il portavoce del Commissario Europeo all'Ambiente. Siamo senza speranza? In effetti il bacino della pianura padana è uno dei più inquinati per quanto riguarda le polveri sottili. Abbiamo ben 30 zone in Italia che sono state interessate da un superamento del limite giornaliero e in 9 zone c'è stato anche un superamento del limite annuale. Per questo motivo poi c'è una procedura di infrazione aperta che è arrivata al cosiddetto parere motivato, insomma l'ultimo avvertimento prima di andare in tribunale nei confronti dell'Italia. Insomma, soprattutto preoccupa perché diciamo che l'inquinamento da polveri sottili, che provoca 400.000 morti premature in Europa, ben 66.000 sono in Italia, rendendo l'Italia lo stato più colpito in termini di mortalità. La Commissione europea ha proposto anche un piano per le auto pulite. In qualche modo gli scandali delle emissioni delle case automobilistiche hanno accelerato una stretta anche politica contro l'aria inquinata? Sì, senz'altro segnali che arrivano di alto inquinamento, che poi riguardano non solo l'Italia, ma ben 16 sono i paesi che hanno ora procedure di infrazione aperto. Quindi la Commissione ha deciso di mettere sul piatto nuovi limiti per le emissioni medie di anidride carbonica nel 2030, in modo da dare da un lato delle garanzie ai cittadini nel medio-lungo periodo e dall'altro un orizzonte per le imprese automobilistiche per saper programmare su quale tecnologie puntare. Al tempo stesso si sono fissati delle chiare quote anche nei appalti per camion, autobus e vetture che devono essere fatti dai comuni e dalle municipalità, stabilendo che per esempio i bus siano per il 50% entro il 2025, per il 75% entro il 2030, tutti a basso livello di emissioni. Vedremo per forza autobus nuovi e più verdi? Senz'altro. In Italia è partito l'accordo interregionale tra le regioni della pianura padana, che sono le più esposte. A Bruxelles questo viene valutato come un passo avanti dell'Italia? Sì, senz'altro ogni sforzo delle amministrazioni lo smog non conosce confini regionali, è bene accetto da Bruxelles, però va anche detto che questo semaforo smog agisce quando i livelli sono già superati. Da parte di Bruxelles c'è anche, diciamo, il desiderio di vedere affrontati questi problemi, siano comunque ridotti in modo strutturale senza dover poi superare comunque i limiti. E qualcun altro è d'accordo. A Torino la procura indaga dalla primavera scorsa sulla base della nuova legge per disastro ambientale per la denuncia di morti per lo smog. Un'inchiesta che, c'è da giurarci, potrebbe raccontare molto nei prossimi mesi. L'aria ossigena ai polmoni, non la devi mai inquinare. Se non è pulita l'aria, come fai a respirare? Intanto un occhio all'acceleratore, uno al riscaldamento. Sarà un altro inverno di lotta allo smog. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.